tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat e altre radio collegate di Bologna e Genova, siamo una nuova puntata del notiziario ateo anticlericale. Oggi parliamo di codici spariti, censure RAI, archivi vietati, 2 milioni di euro, Polonia, cerchio magico, abusi dei preti pedofili. Iniziamo dalle censure della RAI, spesa in tacchi e minigonna, bufera su RAI 2, sospesa la trasmissione con la lezione sessista dal giorno del 26 novembre, i soliti bigotti di destra e sinistra. Abbiamo poi i codici scomparsi, giallo risolto, erano al Palazzo Ducale di Mantova, praticamente una storia di negligenza nella conservazione dei propri beni culturali. Praticamente questi bellissimi codici medievali miniati tutti a colori, bellissimi, ovviamente sono stati rubati dagli stessi custodi bibliotecari della Chiesa, sono finiti nel mercato antiquario, però per un pelo sono stati salvati. Poi abbiamo, sempre sulla RAI, dopo la spesa sexy, la venditrice di lingerie, nuova bufera sulla RAI, vertici inadeguati, dal giorno del 27 novembre, i soliti bigotti di destra e di sinistra. Abusi, la Chiesa inglese si scusa, e i vescovi cattolici inglesi chiedono scusa per i preti pedofili, ormai il disastro è stato fatto. Abusi su minore, 4 anni e 8 mesi a un prete di Corna di Dalfo in Valcamonica, condannato anche in appello. Santa Sede, l'archivio, la fine del fascismo, da un giornale del 22 novembre. Dopo 70 anni la Chiesa finalmente si decide a tirare fuori i documenti che provano le sue complicità col fascismo e il nazismo. Inchiesta Vaticano, blitz a Roma e Celano in Abruzzo, scovato un tesoro nascosto di 2 milioni di euro che era di proprietà di un ex dipendente del Vaticano, che ovviamente si era arricchito come tutti i dipendenti del Vaticano, che in genere sono tutti intrallazzatori, affaristi e hanno un fracco di privilegi. Dalla Polonia, la Polonia odia le donne, l'Europa si gira dall'altra parte, dal Corriere del 21 novembre. Grandi proteste delle donne sul problema della contraccezione e dell'aborto, le solite prepotenze clericali. E dal venerdì di Repubblica, prove di business per l'anno santo che verrà 2025. Si parla del cerchio marcio che circonda il Papa. E si ricorda il buco del precedente anno santo, si aspettavano 40 milioni di pellegrini, ne sono venuti molti di meno. Il benemerito Pippo Gurieri su Sicilia Libertaria pubblica questo articolista anonimo, detto Fra Dubbioso, il quale si scatena contro la Chiesa, il Cardinal Becciu. La vicenda Becciu, su cui tornerò fra poco, ha messo in evidenza come Bergoglio non ne abbia azzeccato una in fatto di nomine nelle sfere più alta responsabilità del Vaticano. Spalla di Becciu, in questo intricatissimo sistema internazionale affaristico dell'imbroglio, c'era il solito finanziere svizzero, i vari parenti del Cardinal Becciu, e che lui chiama vizi di famiglia, il nepotismo nella storia della Chiesa. Tragedia clericale a Lecco. Un ex catechista dell'oratorio si spara a solo 31 anni nel suo ufficio di Lecco. Ma cosa gli hanno insegnato all'oratorio? Cosa insegnava quando faceva il catechismo? A suicidarsi? E disgrazie clericali, virus anticlericale. Il diacono di Torre del Greco, vittima del Covid. Poi questa qui, dottoressa, che collaborava con l'Istituto Pontificio Regina Angelorum, Apostolorum, anche tutte vittime del virus anticlericale. Carenza di prete, saltano le messe. Dunque, messa serale sospesa a Garbagnate, messa in meno a Paderno Dugnano, Niente benedizioni a Baranzate, insomma buone notizie a tutte le parti. Abbiamo poi disgrazie clericali, invece di avere miracoli, questi lavoratori di San Pietro a Maida in Calabria sono morti durante un lavoro. Ecco, le intitolazioni a santi non serve a niente, i santi non esistono, i santi sono persone defunte che non possono fare assolutamente niente per noi. Virus anticlericale a San Giovanni Rotonda, anche qui Padre Pio facilecca, messe a porte chiuse, frati positivi al Covid. Prete, se lo conosci, lo eviti. Per l'eutanasia, leggiamo brevemente questi passi a favore. L'eutanasia non è un attentato alla vita umana, ma una norma che vuole indicare come si può morire con dignità, precisando che per esempio la legge olandese regolamenta una procedura che ha certo i suoi limiti, ma diventa inevitabile in certi casi ben definiti. Interessanti appaiono anche i risultati di un sondaggio sulle tesi di laurea fatte a Torino, dove insomma sia i medici che gli infermieri delle scuole sono favorevoli. Sempre il venerdì di Repubblica ha pubblicato la foto di una lapide di Giordano Bruno di Orbetello. Ah, Giordano Bruno, foriero, martire della tirannide sacerdotale, è assurto alle più alte sfere del libero pensiero, non cedette ma sul rogo, volle il popolo di Orbetello ricordarne il nome in questo pio istituto, eccetera, eccetera, lapide del 1907, non del tutto leggibile. Rilanciare l'anticlericalismo. Avanti con l'ateismo, lotta dura per la laicità delle istituzioni, privilegi clericali. Anche nei cappelli della pubblica sicurezza il clero è riuscito a metterci lo zampino. Allora, cosa è successo? Nel 49 sono state messe le due ali sul berretto dei poliziotti, che non sono di Aquila, ma le ali dell'arcangelo. Allora, dal mio libretto Piccolo dizionario anticlericale, comparse da operetta. Sono coloro che accompagnano il Papa nelle sue esibizioni pubbliche. Comunione e lottizzazione, definizione satirico-giuridica contro comunione e liberazione. Confessionalismo, atteggiamento di ristrettezza mentale, faziosa e dogmatica. Confessionalizzazione forzata, oppressione delle chiese contro il libero pensiero e ogni cultura laica. Confessione, sacramento per cui il prete perdona i peccati grossi in cambio del piacere di sentirsi raccontare quelli piccoli. E dunque, abbiamo poi il mio calendario anticlericale 2021, leggiamo brevemente qualche data. 22 novembre, si dimette il capo dell'antiriciclaggio Vaticano. Affaristi vari imperano nella Santa Sede. 23 novembre 1660, l'Inquisizione di Venezia ordina a tutti i tipografi di non stampare nulla senza la sua autorizzazione, le solite prepotenze del clero. 24 novembre 1848, Pio IX fugge a Gaeta nottetempo travestito da prete, il travestimento nella storia della Chiesa, scriverò un libro su questo. 25 novembre 1400, Inquisitore Borelli guida i suoi armigeri contro i valdesi di Pragelato, li prese di sorpresa e li massacrò. 26 novembre 2019, Cellini ladri, Formigoni può perdere la casa di famiglia per i suoi fatti corruttivi. 27 novembre 2015, sospeso a Divinis in Salvado Monsignor Delgado per abusi su minori, i soliti preti pedofili. 28 novembre 1569, San Pio V ordina di distruggere l'antico cimitero ebraico di Bologna, lapidi raschiate e rivendute come marmo. 29 novembre 1751, il papato condanna al rogo il trattato L'Esprit de Loi di Montesquieu. 30 novembre 2018, sacerdote ai soli 38 anni muore in un disgraziato incidente stradale a Montebello, Vicenza, le solite disgrazie del clero. Accadde nel novembre 2016, monta la protesta contro l'iniziativa anti-gender della regione Liguria guidata dai filoclericali. Bene, saluto a tutti ricordando il nostro sito www.giordanobrunomi.wordpress.com dotato di motore di ricerca. Saluti a tutti.